267. Pollo con la panna. Infilate allo spiedo un busto di pollo giovane per dargli 2/3 di cottura arrosto. Ungetelo con l'olio, salatelo e fategli prender colore. Poi dividetelo nelle sue giunture e del petto fatene 2 pezzi per terminare di cuocerlo nella seguente maniera. Tritate 1/4 di cipolla di media grossezza e mettetela al fuoco con 50 g di burro. Quando sarà ben rosolata, buttateci 10 g di farina e dopo a poco per volta 3 dl di panna, oppure se questa manca, altrettanto latte buonissimo. Quando crederete che la farina sia cotta, versateci i pezzi del pollo per terminare di cuocerli.